Bueno, ante todo, un saludo a todas las personas radioyentes de este programa, desde aquí, desde Bogotá. Ciao, un saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di questo programma. Un saluto qui da Bogotà. Pues le contamos que el 10º encuentro lésbico feminista que se realizó aquí Voglio en Bogotá raccontarvi del tiene decimo incontro lesbico femminista como che si è tenuto qui a Bogotà dal 9 al 14 ottobre. L'incontro ha come antecedenti altri tre incontri. Il primo si è tenuto in Cile nel 2007, il successivo è stato realizzato in Guatemala nel 2009 e quello che è seguito in Bolivia nel 2012. Questi incontri per noi sono molto importanti perché possiamo dire che sono incontri realizzati a partire dall'autonomia femminista e lesbica e che allo stesso tempo si promettono di analizzare i regimi di oppressione e quindi l'eterosessualità come regime politico. Lo interesante para el 10º encuentro es que nos propusimos esta vez analizar la imbricación de esas opresiones con el régimen heterosexual, es decir, más allá La cosa interessante del decimo incontro è che questa volta ci siamo proposte di analizzare le implicazioni dell'oppressione, ovvero il regime eterosessuale, cioè siamo andate oltre al pensare che il lesbismo sia un'opzione sessuale. A noi invece interessava fondamentalmente, a partire dalle nostre pratiche politiche e dalla sessualità delle lesbiche, ci interessava analizzare le implicazioni con questo regime di oppressione. E quindi in questo senso l'asse fondamentale dell'incontro è stato il regime eterosessuale e le sue implicazioni. E unos tres subejes que asumimos. El primero fueron las políticas neocoloniales y neoliberales, fundamentalmente. E quindi abbiamo scelto tre assi di discussione. Il primo sulla politica neoliberista e neocolonialista, vista dal punto di vista della regione dell'America Latina e dei Caraibi, e il capitalismo di accumulazione e di possesso del territorio degli indigeni, degli afro, dei contadini, e l'impatto sulle loro vite, ma non solo sull'impatto della vita delle persone nere, indigene e campesine, ma anche sulla vita delle lesbiche che vivono nel nostro territorio e quindi attraverso l'appropriazione del corpo e della sessualità delle donne. Il secondo subeje fu il tema del razzismo, viendo quali sono le nuove forme in cui ese razzismo si sta presentando precisamente. Il secondo asse di discussione e di analisi è stato il tema del razzismo, ovvero quali sono le nuove forme con cui il razzismo si sta presentando nei confronti delle lesbiche nere, indigene e abitanti dei villaggi popolari. Y el tercer eje que creo yo es el punto novedoso, digamos, de este encuentro, precisamente por haberse realizado en Colombia, fue el tema del militarismo. Pocas Il veces terzo asse, che secondo me è stato il punto veramente innovativo di questo incontro, soprattutto perché si è realizzato in Colombia, è stato il tema del militarismo. Raramente analizziamo che cosa abbia a vedere il militarismo con l'eterosessualità come regime politico e per noi invece è fondamentale perché questo significa che l'industria delle armi ha un effetto fondamentale sul corpo delle donne e delle lesbiche. Alcuni esempi sono il femminicidio, la logica del narcotraffico che stanno avendo una serie di effetti in diversi paesi della regione, fondamentalmente in Messico, Colombia, Guatemala, insomma in tutta il Centro America in generale. Otro aspecto interesante que creo yo de este encuentro fue la metodología. Un altro aspetto per me interessante di questo incontro è stata la metodologia. Molte volte negli incontri precedenti avevamo detto che l'importante era sviluppare metodologie diverse, differenti dagli incontri in cui ci sono relazioni di potere legate al sapere di alcune, di poche. Abbiamo quindi proposto delle metodologie che fossero creative attraverso l'uso di tre tecniche fondamentali. La prima è il video con cui abbiamo analizzato il primo asse di discussione, cioè le politiche neoliberali e neocolonialiste. Quindi abbiamo presentato una serie di video che più o meno esprimevano questa relazione e poi dopo la visione di questi video ci siamo divise in gruppi di discussione a partire da un documento base e anche da una domanda che ci è servita per facilitare la discussione. Questo ha permesso dei dibattiti profondi in ogni gruppo, però anche ogni gruppo doveva produrre un video e questo è stato interessante perché l'assemblea finale non era la solita plenaria noiosa di sempre, ma è stata arricchita dalle produzioni, dai lavori prodotti dalle stesse compagne che hanno partecipato all'incontro ai gruppi. Il secondo asse di discussione, che è stato il tema del razzismo, è stato affrontato attraverso il teatro, quindi si iniziava attraverso una serie di sketch corti fatti da alcune compagne, attrici e teatranti della regione, poi ci siamo spostate nei gruppi di discussione e poi a sua volta ogni gruppo ha presentato uno sketch di teatro che è stato presentato nell'assemblea plenaria. Il terzo asse, che era il tema del militarismo, l'abbiamo affrontato attraverso la metodologia della cartografia. Quindi abbiamo disegnato grandi mappe dell'America Latina dove abbiamo segnato i focus dei luoghi più militarizzati e anche i luoghi della resistenza delle donne e delle lesbiche della regione. E l'ultimo giorno, il 14 di ottobre, nos vinimos a Bogotá porque el encuentro se desarrolló a 2 horas de Bogotá, donde estábamos en unas fincas todas juntas, y el 14 nos vinimos a hacer una marcha en las calles de Bogotá. L'ultimo giorno, il 14 di ottobre, ci siamo spostate a Bogotá. L'incontro si è tenuto a 2 ore da Bogotá, dove stavamo tutte insieme in una fattoria. Il 14 appunto ci siamo spostate a Bogotà per fare una manifestazione, una marcia per le strade di Bogotà. Questa manifestazione anche è stata molto interessante perché è stata super creativa, abbiamo trovato un modo di collocare gli assi della discussione per le strade della città. En términos de los planes futuros, se decidió que la próxima sede sería Perú. Per quanto riguarda i piani e progetti futuri, abbiamo deciso che la prossima sede sarà il Perù e l'idea è quella di continuare ad approfondire questi aspetti a partire da una costruzione collettiva delle lesbiche dell'America Latina per realizzare il prossimo incontro in Perù. Para lograr el encuentro de Perú. Otra cosa interesante del encuentro que yo creo fundamental fue el proceso de autogestión. Un'altra cosa interessante dell'incontro che io credo sia fondamentale è stato il processo di autogestione dell'incontro. Si è trattato di un incontro fatto, costruito a partire dall'autonomia economica. Abbiamo passato circa un anno e mezzo cercando il sostegno delle compagne, vendendo gadget, magliette, facendo attività artistiche per trovare i soldi e questo è stato molto importante. La altra cosa importante che credo io fu la costruzione collettiva, la equipa. L'altra cosa importante secondo me è stata la costruzione collettiva. Nell'equipe che ha preparato l'incontro non c'erano solo le compagne colombiane che ovviamente si sono assunte tutta la logistica, ma altre compagne dell'America Latina e dei Caraibi si sono assunte anche di partecipare il contributo alla costruzione politica e metodologica dell'incontro. È stato molto importante perché abbiamo proposto, diciamo, di transnazionalizzare la costruzione dell'incontro. En términos de documentos, bueno, existen tres documentos que fueron documentos base. Per quanto riguarda la produzione di documenti, esistono già i documenti che sono stati il materiale base che hanno sostenuto e dato via alla discussione degli assi portanti di discussione, appunto. Però stiamo anche preparando la memoria sia visiva che scritta dell'incontro e quindi speriamo che nelle prossime settimane o al massimo in qualche mese di riuscire a uscire e produrre materiale su ciò che è stato l'incontro, sulle discussioni principali e anche sull'aspettativa che molte delle partecipanti hanno sullo sviluppo del femminismo nella regione.